cambiare. Ma se non puoi fare niente di bello, devasta qualcosa di bello. Sei italiano, prima o poi sorridi, ride anche la tua disperazione. Chiudi due persone a lungo in un box e prima o poi scopano. Il mio destino.